La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Settimana non intensissima in quanto a numero di uscite, nuovi film in sala sono quattro ancora meno in quanto a pregnanza, a importanza e al botteghino e anche sotto il profilo, se vogliamo, dell'importanza dei registi e degli attori, dove c'è un film a dominare in tutto e per tutto la settimana per quanto riguarda il cinema, che è Magnifica presenza di Ferzan Özpetek. Qualche produzione minore, non per questo necessariamente meno interessante, c'è, però è una settimana un po' in tono più dimesso. Stanno andando molto bene alcuni film che sono presenti sul grande schermo. Questo è un ragionamento che abbiamo affrontato anche la scorsa settimana e questo forse porta anche un po' più di prudenza su determinate uscite. Però noi, come sempre, cominciamo a entrare un po' negli argomenti che tratteremo nella nostra ora di cinema con i titoli di testa. Pietro, 28 anni. Un viaggio a Roma dalla natia Sicilia e un sogno nella valigia, fare l'attore. Ma la nuova casa che lo ospita nasconde oscure presenze. È chiaro che qualcun altro vive insieme a lui. Ma chi? Torna a Ferzan Özpetek con una commedia magica e onirica e con un grande cast che va da Elio Germano a Margherita Bui, da Beppe Fiorello a Vittoria Puccini, alla Rosa Purpurea, i protagonisti del film. Internet e cinema si fondono ancora una volta. Forte del successo di YouTube e di migliaia di fan, Guglielmo Scilla, in arte Wilwush, sbarca sul grande schermo, nella commedia 10 regole per fare innamorare, diretta da Cristiano Bortone. Marco, studente universitario fuori corso, si farà aiutare dal padre, Vincenzo Salemme, a conquistare una bella ragazza. La figura dell'esorcista di nuovo al centro di un film. Arriva nelle sale italiane L'altra faccia del diavolo. Storia di madre, figlia e demonio sullo sfondo della Roma Vaticana. Un horror a basso budget per un pubblico di cultori. Mockumentary che passione. Documentario e finzione, realtà e fantasia si mischiano in questo genere sempre più in voga in America, ma che sta facendo proseliti anche in Italia. E mentre a Milano si chiude una rassegna sul tema, ne parliamo con il regista del film Il Mondial Dimenticato. Bene, questi allora i contenuti principali della nostra trasmissione. Cominciamo ad occuparci subito del film della settimana. Il ritorno in sala di Ferzan Özpetek, del resto, è sempre un momento atteso da una grossa fetta di pubblico. È un regista che ha molti aficionados, anche qualche detrattore, ma insomma, sicuramente uno zoccolo duro su cui contare. Ferzan Özpetek torna a un clima di commedia, anche se immerso in un ambiente surreale, quasi onirico, con queste presenze appunto magnifiche, come dice il titolo, che popolano una casa, ma non siamo dalle parti dell'horror, anche se qualche velo di inquietudine ogni tanto qua e là si vede. Noi sentiremo il racconto del film da parte nostra Chiara Pizzimenti, poi all'inizio della seconda parte della Rosa Purpurea invece le interviste con i protagonisti. Cominciamo subito con il servizio di Chiara Pizzimenti. E allora, ti sei trasferito? Sì, quasi. E a casa tutto a posto? Che c'è qualcosa che non va? No. Effettivamente qualcosa di strano c'è. Pietro, catanese emigrato a Roma, con il sogno di fare l'attore, un lavoro notturno da fornaio, si sente fortunato nell'aver trovato una casa così, a Monteverde, a un prezzo abbordabile. Scoprirà, non senza spaventarsi, che è già occupata da un'intera compagnia teatrale morta nel 1943. Non farmi sentire la mancanza dei violini, dai! Che mi ha visto llorar la perfidia de tu amor. Siete attori? Io non te puedo aiutare. Pure io sono attore. Spero che almeno lei la voce ce l'abbia. L'iniziale voglia di fuggire lascia il posto alla gioia di avere qualcuno attorno e alla volontà di scoprire la verità. Ovviamente i fantasmi non pensano di essere tali e trovano in Pietro, l'unico che li vede, una sorta di salvatore. Non pensi chi entra al cinema di vedere una storia di fantasmi da paura e nemmeno un romantico ghost. Forse è più Pirandello da citare per raccontare il continuo scambiarsi sul palcoscenico e nella vita di realtà e finzione in una sorta di mistero buffo. Infatti Ferzan Özpetek fa sorridere raccontando ancora una volta storie di diversi, di personaggi inusuali e di chi è pronto ad accoglierli, cioè Pietro, un convincente Elio Germano, adulto che fa ancora gli album delle figurine, aiuta un travestito e impara a recitare dai fantasmi. Fra loro Beppe Fiorello, Margherita Bue, Vittoria Puccini, in un andirivieni fra 2012 e 1943, con citazioni dal Matrimonio all'italiana di De Sica ad Apocalypse Now, fino alla presenza di Anna Proclemer, come abitudine del regista, da Massimo Girotti a Ilaria Occhini, un grande attore di un'altra generazione. Qualche divagazione che si poteva evitare e forse troppi fili da tenere insieme, ma un film dolce nell'insieme che esalta la memoria e il sogno di una presenza cara, per questo magnifica. Ebbene, fin qui il racconto del film da parte della nostra Chiara. Fra poco sentiamo le interviste con i protagonisti. Dicevamo film che potrebbe avere, anzi ha sicuramente grosse ambizioni anche di botteghino. Chissà se riuscirà a scalzare dal primo posto della graduatoria del box office l'altro film italiano del momento, Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone, che è già arrivato alla fine della scorsa settimana, quindi a domenica scorsa, aggiornati a domenica scorsa, 6 milioni e mezzo di euro di incasso, continua a macinare weekend su weekend, veleggia ormai abbondantemente verso i 10 milioni, insomma un grande successo questo nuovo film di Carlo Verdone. E dietro al secondo posto in classifica c'è un altro grande successo che invece è partito un po' alla rovescia, è partito, non dico alla chetichella perché se ne è parlato molto bene dall'inizio, ma ha aumentato le sue copie di settimana in settimana, ovvero Quasi amici, Intouchable, il film francese, la commedia francese di Olivier Nakache e Eric Toledano, che sta veramente convincendo anche il pubblico italiano ed è già arrivato, sempre con i dati aggiornati a domenica scorsa, a circa 6 milioni di incasso globale. Insomma, questi sono i due dominatori del momento al botteghino italiano. Siamo abbastanza convinti che Özpetek possa inserirsi con magnifica presenza in questo novero. Vedremo se nel gradino più alto del podio. La rosa purpurea. Eccoci qua, seconda parte della Rosa Purpurea. Come promesso, siamo alle interviste realizzate sempre dalla nostra Chiara Pizzimenti con Ferzan Özpetek, regista di magnifica presenza, e con alcuni dei protagonisti del film. Sentiamola insieme. Ferzan Özpetek, da dove nasce l'idea di questo film? L'idea è nata di tanti anni fa, di questo mio amico che era andato a abitare in questa casa da pochissimo. Così mi dice: sai, ieri sera mentre guardavo la televisione mi sono girato, ho visto una signora vestita tutto di nero in un modo strano che mi guardava, poi è sparita. Dico: ma sei pazzo? Dico: scusa, vedi una persona, io mi metterei a urlare. Dice: no, guarda, non ho avuto questa reazione così da urlo. Dice: no. Poi dopo qualche giorno mi ha detto, dice: ho visto una ragazza tutto vestita di bianco. Allora sono partite tutte le telefonate tra gli amici: hai visto che mi ha impazzito, ma forse si sente solo, le cose così. Questo è stato così, poi dimenticato. Poi mi è venuta in mente questa idea di raccontare di uno che vuole andare a abitare da solo e che viene da un'altra città e trova delle presenze in casa. Mi interessava molto far incontrare i due mondi completamente lontani, come mi era successo con Le fate ignoranti. In questo caso erano veramente due mondi completamente lontani. Elio Germano non aveva mai lavorato con lei, proprio pensando a lui avete fatto il film? Abbiamo scritto pensando a lui. Elio è una persona che io anche nella vita trovo che sia particolare, sia singolare, una persona molto onesta con se stesso, con gli altri. Queste sono tutte le cose che mi hanno dato ancora più carico, insomma, sul suo personaggio. Magnifica presenza è il titolo del film, che poteva essere al plurale viste le tante presenze. C'è anche una presenza particolare che è Anna Proclemer. Anna Proclemer è la regina del teatro italiano, anzi la chiamano la signora del teatro italiano. Mi è sempre piaciuto molto il suo viso. Ha fatto pochissimo cinema perché lei quando era ragazza era molto moderna di viso, era avanti già. Quando l'ho proposto a lei, che ha quasi 89 anni e ha un'energia incredibile, lei era molto contenta perché già avevamo provato una volta a lavorarci insieme e quindi stavolta è andata bene. Elio Germano, in un ruolo inedito per te, rappresenti l'intero pubblico? Beh, più che rappresentarlo, appunto cerco di prenderlo per mano in qualche modo. Vediamo tutto con gli occhi di questo personaggio, quindi il pubblico vede il film tramite gli occhi di questo personaggio. Restando il tema di fantasmi, di fare un po' il medium, no? Cioè, sono io tramite me, che tramite il personaggio che interpreto, che il pubblico segue la storia. Io faccio un mestiere per cui i fantasmi, diciamo, evocare cose è un po' il nostro pane quotidiano. Se tu pensi che noi crediamo a cose che non esistono, cerchiamo di farci credere anche il pubblico, vediamo cose che non ci sono, con l'immaginario, con l'impalpabile, noi ci lavoriamo, insomma. L'attore si fa attraversare dai fantasmi, dalle anime altrui, per cui è sinceramente, appunto, neanche poi fai più tanta distinzione veramente tra realtà e finzione, nel senso che probabilmente meno ci si pensa e meglio è, no? Tanto è vero ciò che è vero per noi. Beppe Fiorello in un ruolo antico in qualche modo, si torna agli anni 40 nel vestito e nel modo di recitare. È stato un percorso con Ferzan molto affascinante, perché mi ha chiesto immediatamente di preparare un personaggio elegante, affascinante, intrigante, molto truccato, ben pettinato, dalla postura molto cortese e dall'atteggiamento un po' cinico, perché si capisce, si intuisce che è un capo comico che non perdona nessuno se si sbaglia, insomma. Era intrigante anche questo, poter fare l'attore mentre fai l'attore, quindi era un doppio salto mortale, poter recitare senza preoccuparsi di sottrarre la recitazione come si chiede oggi, lì doveva essere più impostato possibile, e questo mi ha divertito da morire. E questa è la carrellata di voci, quindi relativa a Magnifica Presenza, sicuramente l'uscita più importante della settimana in sala in Italia. Siamo arrivati alla prima parte del DVD Game, anche oggi giochiamo con un Blu-ray, è un film straordinario, cominciamo a sentirne una clip. Perché non vengo via da casa? No, io non voglio assolutamente, io non voglio distruggere un matrimonio, inoltre io proprio non sto proprio cercando di complicarmi la vita, folle... Questo è per intenditori, non è ancora facile, è abbastanza per intenditori, ma se avete già indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere il Blu-ray di questo film, Il più bravo e veloce del sabato e della domenica, scrivete alla Rosa Purpurea @radio24.it, titolo e vostro indirizzo, e proviamoci, più tardi ci sarà un'altra possibilità. E invece noi nel frattempo passiamo all'altro lato del cartellone cinematografico del weekend, a quei film, come dicevo, produzioni magari minori, sulle quali adesso parleremo con Boris Sollazzo, cercheremo un po' di capire se c'è qualcosa da tirare fuori. Voglio cominciare con un film che nasce da un vero e proprio fenomeno web, si intitola 10 regole per fare innamorare, ascoltiamo questa clip. Ragazzi, so qual è il problema. Si parla d'amore. Allora siamo nella merda. Ragazzi, non ho speranza. Questa qui è Wonder Woman. Le 10 regole per farla innamorare. Tuo padre è qui per insegnartele. No. Regola numero 1. Il cacciatore deve conoscere la sua preda. Altezza? 1,70. Fisico? Figa. Stile? Figa. Ma una un po' più accessibile? No, eh. Fatti notare. Devi ammettere che nel campo dell'amore hai poca esperienza. Poca. Zero. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Che figura di merda. Ecco, questa è un po' la conclusione del personaggio. Allora, 10 regole per fare innamorare. Internet e cinema ancora una volta, pensate anche al caso dei soliti idioti, la TV, il cinema, le serie, insomma tutto questo melting pot culturale che si incontra e a un certo punto sfocia appunto sul grande schermo. E anche questo è il caso, perché qui siamo di fronte a un grande successo di YouTube, migliaia di fan, di follower sui social network. Guglielmo Scilla, in arte Wilwush, cerca lo sbarco cinematografico con questo suo personaggio, un ragazzo un po' imbranato a livello sentimentale, che cerca di farsi aiutare dal padre Vincenzo Salemme per conquistare una ragazza, e qui nasce questo decalogo, le famose 10 regole per fare innamorare. Boris Sollazzo è qui con noi. Boris ha visto il film, allora che cosa ne pensi? Film particolare, vuole essere una commedia popolare che ha sicuramente il merito di non cercare una strada facilissima, cioè quella di un cast blindato, diciamo alla Brizzi, che peraltro qui è autore del soggetto e cosceneggiatore. Bortone prende un Salemme a cui cerca di far fare anche una parte un po' più, diciamo, sensibile, più sfaccettata di quelle che siamo abituati a vedere, prende Scilla e secondo me è una scommessa vinta. Lui era già in Una canzone per te, insomma il mitico Wilwush, per chi non lo conoscesse, centinaia di migliaia di contatti su YouTube, devo dire anche meritati, E qui fa una cosa completamente diversa, e questo gli va a merito da quella che fa normalmente su YouTube, gli riesce, fa l'attore, lo fa a tutto tondo. E poi va a cercare delle facce molto molto belle, penso a quella di Elena Pintore, ne esce fuori una commedia sentimentale che vorrebbe essere appunto un Brizzi bagnato un po' di moccia, senza essere moccia ovviamente, quindi molto amore. Cristiano Bortone, lo sappiamo, è un romantico, basta vedere il suo bello e commovente Rosso come il cielo per capirlo. Non è, il risultato non è entusiasmante, però non è nemmeno straordinariamente deludente. Credo che sia uno di quei prodotti medi che, se dovessero avere successo, potrebbero fare comunque bene al mercato italiano, che ha bisogno, secondo me, di qualcosa di leggero, anche insomma non eccessivamente brillante, ma che possa essere comunque un prodotto dignitoso. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, la terza parte della Rosa Purpurea, terzo film in sala in questo fine settimana, dopo magnifica presenza di Ferzan Özpetek, 10 regole per fare innamorare. Lasciamo l'Italia, andiamo a un horror che si intitola L'altra faccia del diavolo e che ha usato molto l'antitesi col Vaticano nel battage pubblicitario. Tabelloni, trailer raccontano il film che il Vaticano non avrebbe mai voluto farvi vedere. Chissà se sarà davvero così, ascoltiamo la clip. Quando avevo 8 anni, mia madre ha ucciso 3 persone. La polizia è arrivata alla casa. Ha commesso questi omicidi durante un esorcismo e fu trasferita all'ospedale psichiatrico Centrino a Roma. Cominci a chiederti, ce l'avrò nei geni? Maria, sono tua figlia. È contro la volontà di Dio, capisci? Ah! Fatemi uscire! Se vuoi davvero aiutare tua madre, devi capire che cos'è un esorcismo. Quindi che mi consigli? Devi vederne uno vero. E allora avete sentito un po' il clima di questo film. Produttivamente interessante il percorso, perché la casa produttrice, la Insurge, è quella che ha, diciamo così, generato il grande successo di Paranormal Activity e che a questo punto la Paramount si è acquisita per comprare film a quasi low budget, anzi meno che low budget, intorno al milione di dollari, per provare a ottenere invece risultati molto molto superiori. Chiaramente con questi budget è un attimo fare un film che è un po' un pacco, diciamo così. Voglio capire da te, Boris, di esorcismi se ne sono visti tanti al cinema, è uno dei generi dell'horror forse ancora più inquietante, se vogliamo, no? Perché non va tanto nel paranormale quanto in qualcosa che affonda le radici nel mistero religioso. Ora, qui l'operazione è riuscita o non lo è? Ma qui è sicuramente più riuscita di Paranormal Activity, diciamolo subito. Secondo me anche a livello di marketing, perché sono stati furbissimi, nel senso che hanno fatto un'uscita in America davvero da strateghi militari, insomma, in un weekend che era stato studiato per, diciamo, la sua debolezza negli altri titoli, e hanno avuto un risalto enorme sia mediaticamente sia a livello di incassi, con incassi sostenutissimi. E poi c'è nella struttura di questo horror, che vede la produzione esecutiva, una vecchia volpe come Lorenzo Di Bonaventura, sicuramente più solidità in Paranormal Activity, che io ancora faccio fatica a capire come possa aver avuto tutto quel successo, diciamo, usando la definizione che hai detto tu. Quello veramente mi sembra uno dei più straordinari pacchi mai realizzati al cinema. Poi sono stati furbissimi anche mediaticamente, perché il Vaticano non li ha assolutamente contrastati, addirittura le riprese sono state fatte tra Roma e Bucarest e alcune nella città del Vaticano, e come potete immaginare nulla si può fare senza che il Papa sappia, voglio dire. Quindi quella diciamo frase di lancio che il Vaticano non vi avrebbe mai voluto far vedere dipende da una recensione negativa di una critica di una radio colombiana che è vicino al Vaticano, quindi sono proprio andati a pescare la polemica solo per tentare il lancio più efficace. Sono stati bravi anche perché hanno fatto tutta una serie di anteprime e alla fine, diciamo che in queste operazioni il livello cinematografico credo sia la parte meno importante nella struttura di un film. Per chi fosse appassionato di horror posso assicurarvi che sicuramente non uscirà deluso, ma anche in questo caso non siamo certo di fronte a un capolavoro. Boris, c'è spazio per un altro film, è un film insomma che attiene sicuramente più alla questione dell'approfondimento, dell'impegno civile, che non a quella dell'intrattenimento puro. Stiamo parlando di Mare Chiuso, è un documentario firmato dal regista padomano Andrea Segre insieme a Stefano Liberti, finché esce nelle sale cinematografiche però in questo fine settimana, e di cui però si è parlato moltissimo in questi giorni, perché c'è una questione forte al centro di questo film, ovvero quella dei respingimenti dei clandestini, soprattutto che arrivavano dalla Libia all'indomani degli accordi firmati con la Libia, appunto dall'Italia. Allora, responsabilità italiane su questi respingimenti, questa sembra può essere la tesi del film, condotta tra l'altro definita illegittima da una sentenza recente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ecco, c'è qualcosa di grosso come materiale in questo documentario che trova la via dell'uscita. Insomma, spieghiamo un po', raccontiamo un po' qual è il senso e il contenuto di questo film. Senso e contenuto di questo film sono una profonda, amara, anche dolce in alcuni momenti, e durissima denuncia nei confronti dello Stato italiano. Finché il razzismo è un fatto popolare, è un difetto della gente, sicuramente non può essere sopportato. Nel momento in cui il razzismo diventa invece uno strumento dello Stato per governare, a quel punto va denunciato, va stigmatizzato. E Andrea Segre fa quello che in un documentario raramente si fa, in qualche modo, cioè fa quasi un sequel. In Come un uomo sulla terra ci aveva mostrato l'odissea degli immigrati africani che per arrivare in Italia dovevano passare per le forche caudine della Libia, e adesso racconta con chiarezza, con grandissimo coraggio, come ci sia stata una parte attiva e cattiva del governo partendo dai trattati con la Libia, e come questa sia stata addirittura rivendicata. Strasburgo ha sottolineato l'illegalità di questo comportamento da parte dello Stato italiano, un comportamento gravissimo perché si sono calpestati i diritti fondamentali dell'uomo da parte di uno Stato e non di un singolo, e si sono sentiti dire che erano dei maestrini. Ecco, Andrea Segre, con la sua lucidità di sguardo, anche con una certa amara ironia, con una capacità di mostrare nel documentario momenti bellissimi anche di regia, riesce a raccontarci tutto questo. E tra l'altro cinematograficamente Andrea Segre è un regista molto interessante, perché con la sua opera prima a Venezia proprio pochi mesi fa, con Io sono lì, ha firmato uno dei film più belli della stagione italiana, più belli e poco visti tra l'altro, quindi io vi invito anche a recuperare quello che invece è un film di finzione straordinario ancora, dove c'è il tema dell'integrazione però anche molto, in maniera molto romantica, sullo sfondo della splendida cittadina di Chioggia. Boris, grazie per i tuoi racconti, ovviamente noi ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a te, alla prossima settimana. E allora, abbiamo esaurito l'ampia parentesi, anche se i film erano solo quattro, dedicata ai nuovi film che arrivano in sala. Avete visto, settimana dominata dal cinema italiano per quanto riguarda le uscite. A questo punto ci tocca giocare nuovamente insieme con la seconda traccia del game. Tu mi ami? Sì, è quello che... Sì, ma certo, è tutto qui, capisci? Lo sai che ho già compiuto 18 anni? Ah, sì? Sono maggiorenne, ma sono ancora una ragazzina. Mica tanto ragazzina, 18 anni. Sei già soggetta a richiamo. In certi paesi saresti già sotto. E allora qui si comincia a capire un po' di più, soprattutto qual è il protagonista maschile del film, ma avrete un'altra possibilità più tardi. Però, se avete indovinato o pensate di averlo fatto, La Rosa Purpura, @radio24.it, nome, cognome, indirizzo e titolo del film. Più tardi, l'ultima possibilità. Allora, a questo punto io voglio parlarvi brevemente di una iniziativa del Sole 24 Ore, un collaterale che esce in edicola proprio questo fine settimana, domenica 18 marzo. Si si intitola la collana Sounds for Silence. Sono 11 uscite di DVD al prezzo di 9,90 euro più il quotidiano. Sono 11 film muti tra i più belli, famosi della storia, per i quali sono state scritte, arrangiate ed eseguite colonne sonore da alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale nazionale. Si va da Piovani a Jovanotti, dagli Avion Travel a Sergio Cammariere, che hanno dato il commento, il tappeto musicale a questi straordinari film muti. Insomma, dategli un'occhiata, perché davvero è una collana molto molto interessante e innovativa. Invece parliamo di mockumentary. Perché parliamo di mockumentary? Li abbiamo anche, tra l'altro, affrontato prima. Un po' di mockumentary c'è anche nell'altra faccia del diavolo, perché si è appena chiusa a Milano una rassegna che si intitola Tra vero e falso, il mockumentary. Il mockumentary è questo genere che ha un impianto narrativo documentario, ma racconta cose false, cose che non sono vere, cose che sono di finzione, ma le racconta con lo stile del documentario, mettendo molto spesso lo spettatore di fronte anche alla questione: sarà o non sarà vero? Perché sembra tutto molto vero. A questo genere, che ha capostipiti film come Zelig di Woody Allen, The War Game, oppure Death of President, tanti veri o finti documentari, è stata dedicata questa rassegna dalla Cineteca di Milano, Spazio Oberdan. In questa sede, diciamo così, c'è stata anche la proiezione di un film mockumentary a sua volta, che si intitola Il Mondial Dimenticato, un film che è passato con grande enfasi, devo dire con grande visibilità, all'ultimo Festival di Venezia, che racconta del Mondiale del 1942. Come tutti sapete, i mondiali di calcio nel 38 ufficialmente si sono sospesi, poi c'è stata la guerra, si sono ripresi nel 50, ma nel 42 qualcuno dice in Patagonia si giocò un mondiale. Sentiamo questa clip. Memorable para nuestra comunidad, para el fútbol, para la cultura del mundo. Se supone que soy el loco. ¿Qué ofrece el sabio? Questo è l'annuncio ufficiale, o no, chi lo sa, del film, del mondiale del 42. Filippo Macelloni, regista, è già in collegamento con noi. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno. Allora, vero o falso? Raccontaci un po', sto mondiale, si è giocato, c'è stato, che cosa avete trovato, cosa avete raccontato e soprattutto chi l'ha vinto? Vero o falso? Credo che sia divertente che lo scoprano gli spettatori. Ovviamente questa storia qua è ispirata a un racconto di Osvaldo Soriano, che è uno scrittore argentino molto noto, che ha scritto un racconto che si chiama Il figlio di Butch Cassidy. Racconta delle memorie di suo zio, che appunto ha raccontato a sua volta a Soriano di essere stato guardaline nel campionato del mondo del 42, dove l'arbitro era questo bandito nordamericano fuggito in Patagonia che si chiama Butch Cassidy. Ci siamo incuriositi a questo racconto, abbiamo aggiunto una ricerca, mesi, anni di ricerche tra gli archivi di tutto il mondo, testimonianze varie, e abbiamo messo insieme questa storia che appunto gioca un po' come tutta la letteratura sudamericana e quella di Soriano in particolare, tra realtà, leggenda, fantasia e immaginazione. Ecco, ma parlami un attimo, se si può, dell'aspetto della realtà, cioè cosa, c'è stato qualcuno che ci ha provato a fare sta cosa, insomma, a fare sto mondiale? In Patagonia in quel periodo lì c'erano tante comunità di paesi diversi che stavano lì fondamentalmente per costruire una diga e una ferrovia. C'erano gli inglesi che costruivano la ferrovia, c'erano gli spagnoli che avevano un sacco di negozi e commerciavano, c'erano gli italiani che stavano costruendo la diga a Barda del Medio, che un po' rivoluziona tutta la zona. Quello che immaginiamo noi, che immagina Soriano, è che tra queste comunità a un certo punto qualcuno decida di giocare un campionato, e che questo campionato, visto che nel 42 per ovvi motivi legati alla guerra la FIFA non riusciva a organizzarlo da qualche altra parte, un conte basso e pieno di immaginazione e di risorse economiche cerca di convincere la FIFA a giocare il campionato del mondo in Patagonia. C'è una pagina Facebook dedicata al film che aggiorniamo continuamente con le proiezioni, quindi vi invitiamo a collegarvi con la pagina Facebook del Mondial Dimenticato, e lì troverete tutte le informazioni anche sulle proiezioni. Perfetto, beh, ottimo, ottimo metodo per tenerci informati. Grazie Filippo Macelloni, regista del Mondial Dimenticato, a risentirci. Grazie, ciao. La rosa purpurea. Ancora la Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma tradizionalmente dedicata al cinema da vedere o rivedere in casa, e con noi ci sono gli amici della redazione del settimanale Film TV che come sempre ci aiutano a dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana. C'è con noi Nicola Cupperi, ciao Nicola. Ciao Franco, saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, abbiamo scelto un film che è sempre un classico, uno di quei film che magari tutti hanno visto ma che quando il telecomando scanalando arriva lì ti fermi, ovvero La guerra dei Roses. Assolutamente sì, lo mandano in onda su Iris mercoledì alle 21.10. Parla di Barbara e Oliver, una coppia che dopo 18 anni di matrimonio e due figli decide di rompere la loro perfetta unione yuppie, dando vita a una furiosa lotta per la spartizione dei beni. Si tratta della seconda regia cinematografica per Danny DeVito, che da un soggetto al curare estrae una commedia nerissima capace di sparare con feroce cinismo sul perbenismo dell'istituzione familiare americana. Una sorpresa e assolutamente un classico, come dicevi tu. E allora, mercoledì 21 marzo, rifacciamoci quattro risate con La guerra dei Roses su Iris alle 21.10. Invece, questa volta abbiamo scelto, anziché una recensione, una sorta di nottata, quella di Fuori Orario, che nella notte di sabato 24 marzo, con la sua consueta carrellata di film, mette insieme alcune proposte piuttosto interessanti, due delle quali legate da una sorta di fil rouge. Si tratta di Il Lillo di Maria e Je vous salue Marie. Esattamente, sabato notte a partire dalle 1.50, prima il cortometraggio Il Libro di Maria, diretto da Anne-Marie Mieville, la moglie di Jean-Luc Godard. Un cortometraggio di 28 minuti, intimista, delicato, timoroso e rabbioso, che precede sia nella programmazione di Rai 3 sia appunto concettualmente Je vous salue Marie, lungometraggio di Godard, rilegge in maniera dissacrante ma senza blasfemia, anzi con grande spiritualità, la storia della Vergine Maria, con risultati visivamente eccelsi. Ecco, ricordo allora che oltre a questa doppietta, la nottata di Fuori Orario prosegue poi con altri due film interessanti, I gatti persiani e soprattutto Specchio magico di De Oliveira, che conclude la nottata e affaccia la mattinata della domenica. Grazie a Nicola Cupperi di Film TV, appuntamento la prossima settimana. Grazie a voi, grazie Franco, a presto. Oh, bene, siamo arrivati all'ultimo l'ultimo file, l'ultima traccia misteriosa del DVD Game di oggi, sentiamo. Senti, salgo a prendere il cane, vuoi aspettare, devo farlo uscire, o hai freddo o qualcosa del genere? No, ti aspetto. Che razza di cane hai? La peggiore. Davvero? È un bassotto. Ah. Sai, è un sostitutivo del pene per me. Oh, nel tuo caso avrei pensato ad un alano. Beh, fantastico, scusate, stavamo ridendo a crepapelle qui per questa battuta tratta da quale film? Ditecelo voi se volete provare a vincerlo. La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo e vostro indirizzo. 7 giorni fa avevamo giocato con questo film. Quante volte ho danzato Caffè Müller insieme a Pina? Quante volte ho visto i suoi capelli, la sua schiena, le sue braccia? Quante volte ad occhi chiusi l'ho sentita e sapevo che lei sentiva tutti noi? Anche chiusi, i suoi occhi potevano vedere tutto. Capolavoro assoluto, Pina di Wim Wenders, un film per Pina Bausch, un film straordinario che mischia il più grande cinema, la danza e per una volta il 3D utilizzato come si deve. La traccia che avete sentito era quella di una delle componenti italiane della compagnia del Tanztheater di Wuppertal di Pina Bausch. Vi avevamo fatto ascoltare la settimana scorsa anche altre tracce in altre lingue, avevamo parlato di film un po' poliglotta, davvero un film da avere a tutti i costi. Lo hanno indovinato e lo avranno grazie alla Rosa Purpurea in Blu-ray Claudio Santarelli di Roma ed Enrico Giovagnetti, anche lui di Roma, tutti e due nella capitale questa volta, i nostri doni. Con noi c'è Claudio Pofi che ci racconta un po' struttura e contenuti di questa uscita in video. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, il Blu-ray di Beam è di eccellente resa e offre su di un solo disco sia la versione 2D che quella nettamente più coinvolgente a tre dimensioni con notevole profondità di campo, mantenendo un'elevata definizione nonostante gli ambienti chiaroscuri. Ricordo che l'opera è stata girata in 3D dal maestro Wenders ed è visionabile in stereoscopia da parte di chi è già dotato di televisore e lettore Blu-ray compatibili. La traccia DTS ad alta risoluzione è unica, multilingue con sottotitoli e come extra scene eliminate un'intervista al regista e il trailer. Oh bene, questo per quanto concerne il game della scorsa settimana. Le recensioni invece di questa. Voglio cominciare con un documentario molto toccante e che a mio modo di vedere fotografa e incornicia un personaggio che ci manca molto al cinema italiano, perché da tanti anni ormai non fa più film. Stiamo parlando di Francesco Nuti, il documentario si intitola Francesco Nuti e vengo da lontano, echeggiando un suo famoso film. Sentiamo. Tutti quelli che l'hanno vissuto, tutti quelli che hanno visto i suoi film sanno come giudicare Francesco Nuti, mentre io so di lui cose che altri non sanno, cioè che cosa avrebbe voluto fare nella sua vita, quali film non ha mai fatto. E che pochi conoscono questa poesia così pura che c'aveva Francesco quando gli veniva un'idea. Poi magari quando faceva il film doveva scendere a dei compromessi con la produzione, con la vita, però le sue idee erano veramente molto pure. Regista, attore e sceneggiatore in primo piano nel panorama della commedia italiana tra anni 80 e 90, poi l'uscita di scena dopo i flop al botteghino, la burrascosa vita privata. Nel 2006, all'alba della sua rinascita professionale, la rovinosa caduta che lo lascia prima in coma e poi lo costringe su una sedia a rotelle. Il meraviglioso documentario biografico di Mario Canale ripercorre la carriera del grande Francesco Nuti con immagini inedite dietro le quinte dai set, interviste a parenti, amici e collaboratori come Giovanni Veronesi, di cui abbiamo appena ascoltato la voce, e che tracciano il ricordo dell'uomo e del poliedrico artista. Da CG Home Video un DVD di pregevole qualità, traccia Dolby Digital Stereo, come extra abbiamo una galleria fotografica. E questo quindi il documentario su Francesco Nuti. Adesso parliamo invece di un film del 1990 diretto da Abel Ferrara, un film che è rimasto impresso nella storia, diciamo così, del noir americano, del poliziesco americano più recente, più moderno. Si tratta di King of New York. Ho passato metà della mia vita in prigione, ho sempre pagato tutto e non ho mai ucciso una persona che non se lo meritasse. Ti sei nominato giudice da solo? Beh, è un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo. E adesso, per il gusto di Articlei e di quegli altri figli di puttana, appiccichi su una mia fotografia una targhetta da $50,000 e mi fai diventare il nemico pubblico numero uno. Uscito di prigione, Frank White torna a capo di una spietata gang di criminali, riprendendosi la piazza di New York. Dopo innumerevoli tentativi, un gruppo di poliziotti che non riesce a incastrarlo decide di assaltare il covo in cui pensano si trovi Frank, massacrando invece quasi tutta la banda. Il boss non tarderà a spingere la vendetta verso un punto di non ritorno. Prima del cattivo tenente, Abel Ferrara firma nel 1990 questo notevole noir metropolitano con un grande cartello di attori, tra cui spicca Christopher Walken nel ruolo del boss. Da Medusa Home Entertainment, la prima edizione Blu-ray italiana di questo film, attualmente l'unica versione al mondo rispettosa dell'originale formato cinematografico. Doppia traccia stereofonica ad alta risoluzione italiano-inglese, purtroppo non ci sono extra. E allora grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E con Claudio Pofi, con le segnalazioni un video, noi chiudiamo la puntata della Rosa Purpura. La nostra sigla sta già salendo sotto il mio parlato. E allora io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre il sabato alle 18, la domenica in replica alle 15, per venire a conoscenza di tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpura. Un saluto da Franco D'Assisi.